Melog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Oggi ad Olbia le scuole sono chiuse, del lutto cittadino, perché oggi vengono celebrati i funerali delle vittime che, ricordiamolo, tra la città e la provincia sono 13 su un totale di 16. Il PD ha raccolto l'appello del premier Letta e non voterà la sfiducia al ministro Cancellieri. E uscivo dei liquari puzzolenti che non cresceva più l'erba, gli alberi che morivano. Prima di nascere qui li stanno ammazzando la gente, per soldi. Due ragazzine di 14 anni indotte a prostituirsi da un gruppo di adulti, tra cui anche la madre di una delle due ragazzine. La prima fase delle primarie, cioè il voto degli iscritti nei circoli che permette di scoltire i candidati da 4 a 3, si è conclusa. Oggi faccio un esperimento, trasmissione rischiosissima, che non avrebbe senso di essere trasmessa se non ci fosse un'immediata reazione da parte del pubblico, che può chiamare all'800240024. Trasmissione totalmente senza rete. Vi trasferisco un mio stato d'animo di ieri sera. Guardavo la televisione, in contemporanea ho fatto uno zapping e alcuni flash mi hanno colpito. Da una parte le immagini del disastro in Sardegna, con Cecchi Paone che strillava, urlava, diceva non date un euro, è colpa loro, hanno fatto le case nei fiumi. E mi sono andato a vedere una mappa d'Italia con le aree di dissesto idrogeologico, visto veramente tutta Italia a rischio, potrebbe accadere ovunque. Un istante dopo ho girato, ho visto un fantastico servizio delle Iene, che era andata a casa del pentito di Camorra, il boss Schiavone, che davanti a una mappa di Google diceva i posti dove hanno seppellito negli anni tonnellate di rifiuti tossici, anche radioattivi. E poi la Iena andava puntualmente in quei posti e vedeva laddove alla profondità di 18 metri avevano seppellito bidoni e bidoni di rifiuti radioattivi che venivano probabilmente da qualche centrale nucleare della Germania, non so bene dove, o tonnellate di fusti di rifiuti velenosi. C'erano dei rigogliosi campi di ortaggi, di frutta, di verdura, e persone che sapevano che morivano con un'incidenza altissima di cancro. Sapevano che lì sotto c'era il veleno, sapevano che coltivavano sul veleno, tutti sanno, per anni è stato scretato questo dato, ma naturalmente tutto va avanti lo stesso. Si parlava infatti di primarie del PD, si parlava di Renzi versus Letta, si parlava del caso Cancellieri, i politici si arrabattavano in televisione, nei vari talk show. Io mi sono domandato a questo punto, quali sono le vere ragioni per cui vale la pena di vivere? Quali sono le cose per cui noi diciamo, beh, vale la pena di vivere, non prendiamoci a più di tanto? Dico questo perché già sottoposi questa domanda al mio pubblico qualche tempo fa, dicendo quali sono le cose per cui vale la pena di vivere. Beh, questa mattina piacerebbe dare un segnale a chi ascolta la radio, ascoltando quelle che sono per voi le cose per cui vale la pena di vivere. Una domenica d'inverno, quando fuori piove è brutto, accendere il camino e passare l'intero pomeriggio sbracata sul divano con mio marito e mia figlia a vederci un bellissimo film. La prima cosa per cui vale la pena di vivere, secondo me, è cercare un ottimo scatto fotografico. Gettarmi da una montagna con il deltaplano, una bella traversata in barca a vela, possibilmente oceanica. La sigaretta dopo il caffè, la Fiorentina intesa come squadra di calcio e come bisteccona. La mia prima ragione di vita sono le lenzuola di mia mamma, che sanno sempre di buono e sanno di quando ero bambina. Ecco, contrariamente a quello che uno potrebbe pensare, tutte le volte che, non so, mi ricordo lo fece il male, tutte le riviste satiriche dicono quali sono le ragioni per cui vale la pena di vivere, naturalmente ci sono sempre i furbastri che dicono subito quella che è l'immarcescibile oggetto del desiderio, per cui io vivo per questa cosa qua. Io infatti nemmeno ho avuto bisogno questa volta di specificare che non mi interessa quelli che dicono che la ragione per cui vale la pena di vivere è la natura femminile per gli uomini, o il fascino maschile per le donne, oppure i soldi, avere tanti soldi. No, queste sono cose banali, lasciamo a chi non ha fantasia. Mi piace pensare nell'intimo quali sono le cose per cui vale la pena di vivere, e non mi dite nemmeno l'amore dei figli, accarezzare i bambini. Lasciamo la banalità, fermiamoci a piccoli flash, cose che rimangono impresse nella nostra mente, come per me l'odore di legna bruciata attraverso la nebbia di quando passavo per le pietre della mia città quando ero ragazzo. Vedo soltanto la nebbia, sentivo l'odore di legna bruciata e immaginavo che in qualche casa del centro storico c'era un caminetto acceso e bruciando quella buona legna fatta contemporaneamente di tralcio di potatura di vite che dà un odore molto aspro e qualcosa che è anche la sfrondatura dei pini e degli abeti che dà invece quell'odore resinoso. Beh, questo mix mi dava l'idea di allegria, mi dava l'idea di famiglia, di calore familiare, di persone che stanno davanti a un fuoco, di qualcuno che si apprestava a mettere delle salsicce a cuocere su quel fuoco. Annalisa, buongiorno. Annalisa Caduta era la prima persona che aveva chiamato. 800240024, vediamo se questa mattina, per un attimo astrendovi da quelle che sono le pulsioni della cronaca, avete anche voi l'idea di dirmi quelle che sono le cose che per voi hanno ancora un senso, per cui vale la pena di vivere. Prima ragione per cui vale la pena vivere per me è le falesie di Etretat in Normandia. Seconda ragione per vivere, un libro interrogatorio alla Contessa Maria di Aldo Paraseschi. Shopping, sono una fissata delle scarpe e dell'intimo. Cazzeggiare su Facebook, ma soprattutto oltre a mangiare bene non dover cucinare e quindi andare a cena fuori. Un giro in moto nei primi caldi in primavera, una corsa d'estate sotto la pioggia, fumarmi una sigaretta alla sera dopo cena facendo un sudoku. Non è detto debbano essere per forza delle ispirazioni poetiche, qualcosa di ineffabile, di etereo, ma potrebbe essere anche cose molto banali. Una delle mie maggiori piacevolezze è quando c'è una camicia nuova con quel buon odore di cotone, che te la metti addosso, che senti non se l'è mai messa nessuno prima di te, non perché usi normalmente camicie usate, ma una volta lavata una camicia non è più la stessa cosa. Invece quando è nuovo senti ancora quella sorta di rigidezza del cotone. A me piace soltanto il puro cotone senza fibra, se no perché ho la pelle molto delicata. Beh, per me una delle gioie della vita è avere una bella camicia nuova che ti stia bene addosso, con i polsini lunghi al posto giusto, con il collo che schiude bene. Non le camicie fatte su misura, me le sono fatte far certe volte, è un'altra cosa. È quella sorta di azzardo per cui trovi la camicia che era adatta per te, era fatta per te, anche se non l'hai fatta fare apposta dal sarto. Ermanno, buongiorno. Buongiorno. Qual è la cosa per cui vale la pena vivere per lei? Io sono un appassionato di montagna e ho 55 anni e ho portato mio figlio in Nepal, siamo rientrati la settimana scorsa. Siamo stati a fare un trekking a vedere l'Annapurna, il Dhaulagiri e il Manaslu. Sono tre montagne da 8.000, io non ci potrò mai salire, ma vederle da anche solo da vicino. Perché gli schiatta il cuore se sale là sopra, Ermanno? Qual è il problema? È troppo alto. Sono un alpinista dei 4.000, non degli 8.000. Non degli 8.000, capito. Quindi per lei, diciamo, la formula per elaborare tutto quello che abbiamo sentito all'inizio, di paradosso, di infamità, di ridicolaggine, di perplessità di fronte a quelle che sono le cure degli uomini che dovrebbero occuparsi di cose concrete, in realtà si fermano a contrapporsi nelle loro dichiarazioni e parlano di se stessi e non fanno altro che celebrare se stessi e la loro esistenza in un sistema che vive soltanto perché viene giustificato dal fatto che celebri l'esistenza delle somme inesistenze. Lei dice camminare in delle montagne molto alte dà il senso della giusta relazione con il mondo concreto. Rodolfo invece, anche qualche donna mi piacerebbe sentire. Rodolfo. Buongiorno, guardi, io sono qua sul Monte Baldo, da 20 anni faccio il boscaiolo. Ah, tutti sono alpinisti questa mattina. In un ambiente, no, alpinismo è un'altra cosa. Beh, tutti diciamo in discesa, montanari. Vabbè, la trascendenza si certo, colpisce meglio quando uno è in alto. Sono qua circondato da montagne, neve e cielo, però alla fine se andiamo a vedere, per quello che per me dopo una vita conta davvero è mangiare, bere e scopare, ovviamente in buona compagnia. In quest'ordine? Certo, perché c'è la sopravvivenza prima. Mangiare poi, bere, poi a stomaco pieno. Non sono molto d'accordo, per me le cose non concedono bene, poi ognuno ha il suo modo di vedere, per me le attività gastriche, digestive, le fiatelle che sanno di retrogusto, di sugo, poco hanno a fare con quella che è l'affocamento carnale, la delizia del rapporto intimo, del carpire una persona la sua più profonda essenza, anche soltanto per gli attimi fugaci in cui te lo concede, sapendo che non è nulla di esclusivo, nulla di assoluto, nulla che ti porterà da nessuna parte, ma perlomeno ti apre una fessura in quel momento rispetto alle cose che secondo noi non vale la pena di vivere. Marco, buongiorno. Buongiorno. Dunque, io volevo dire che praticamente le cose che mi danno senso nella vita, quando cerco di dare il mio esempio, cose concrete, magari, concretizzi. Concretissime. Quando ho tempo e ho dei ritagli di tempo, mi vado a pulire dei fossi, mi vado a pulire l'immondizia che c'è lungo, diciamo, le strade, vado a pulire delle piazzole. E noto che quando sono belle pulite, con i suoi sacchettini dell'immondizia, apposte, cestini, eccetera, rimangono poi pulite. Perché vedo che proprio c'è immondizia da tutte le parti. In Italia, dove vai, c'è, butti l'occhio, c'è immondizia dappertutto. Si gettano le cose dai finestrini delle macchine, bottigliette di plastica, bottiglie di birra di vetro. È una cosa indecente. Cerco di dare il mio esempio e di far sì che la mia rivoluzione culturale possa partire proprio da lì. Quindi lei sente soddisfatto, realizzato, dice, ha valso la pena? No, quando... io non mi sento soddisfatto perché purtroppo, però cerco di dare il mio esempio magari nella speranza che qualcun altro... Cioè lei vuole vedere un pezzetto di terra recuperato alla decenza e ce l'ho fatto io, questa è la cosa che le piace, va bene. Marco l'ha detto Gianni? Sì, pronto. Eccomi Gianni. Ecco, niente. Cosa vale la pena di vivere? Per una passeggiata nella pianura padana con la nebbia a cavallo. Una lunga passeggiata a cavallo immergendosi nella nebbia della pianura padana. E questo rimette in condizione di poter sopportare poi il quotidiano. Se ha possibilità di avere un cavallo, d'estate come si comporta? D'estate non c'è nulla che valga la pena di essere vissuto? Beh, d'estate sì, sicuramente... Io sono appassionato di cavallo, quindi la passeggiata di... Lei trova che nel rapporto col cavallo, che è un rapporto forte, potente, esclusivo, sì, molto forte, sì. Ci si sente un centauro e si cammina fra la nebbia. Non si pensa più a tutti i problemi della giornata e quindi si riesce a sopportare meglio. Francesco, buongiorno. Per cosa buongiorno. Vale la pena di vivere? Salve. Io faccio un burattinaio e per me vale la pena di vivere... per due cose soprattutto. Una è creare i burattini, vedere quando vengono fuori e rendermi conto che tra mille difficoltà, ripensamenti, dubbi, sto facendo il lavoro che insomma ho sempre desiderato di fare, quindi questa è una bella sensazione. E poi, anche se è una cosa che può sembrare eterea, ma per me non lo è, le risate, per ridere mi... è una cosa per cui vale la pena di vivere. A lei piace, diciamo, la sensazione, la vertigine di creare un burattino, quindi la profonda lussure dell'essere burattinaio, che nella sua accezione negativa vuol dire tutt'altra cosa. Non è un burattinaio che dà vita a burattini, un po' come Geppetto, un po' come Mangiafuoco, che alla fine, anche se minacciava di bruciarli per far l'arrosto, aveva un senso di paternale rispetto anche per i suoi burattini. Melog, cronache meridiane. Ci sono certe cose per cui vale la pena di vivere. Per esempio, io direi il vecchio Groucho Marx, Joe DiMaggio, secondo movimento della Sinfonia Jupiter, Louis Armstrong, l'incisione di Potato Head Blues, i film svedesi naturalmente, l'educazione sentimentale di Flaubert, Marlon Brando, Frank Sinatra, quelle incredibili mele e pere dipinte da Cézanne, i granchi da Sam Wu, il viso di Tracy. Questo è uno dei prototipi filmici delle ragioni per cui vale la pena di vivere. specifico per qualche ascoltatore che me lo chiede, non è con la voce rotta dal pianto e dalla commozione, ho un malessere tipicamente stagionale, ho la gola che mi fa male boia, quindi faccio un po' fatica a parlare, ma questo è come per un centometrista spaccarsi le ginocchia, la stessa cosa, tiro avanti lo stesso. Leggo qualche ragione per cui vale la pena di vivere dei nostri ascoltatori. I colori dell'autunno che vedo adesso alla finestra, dice Chiara, andare a giocare alla roulette a Saint Vincent e vincere. Un meraviglioso viale di alberi gialli con foglie sparse sull'asfalto grigio. Ho ringraziato per tanta bellezza. Poi aspettiamo l'odore di hot dog nelle piazze del nord Europa la domenica mattina, un film nei cinema all'aperto, una bella estate sarda. L'aroma del gusto del tè, il vapore sale sollevando un po' il coperchio a teiera, le fusa di un gatto, un libro, il sapone di Marsiglia. Poi uno mi dice l'odore che sento le camicie nuove degli appretti industriali. Ma viviamo di illusioni. Se l'appretto industriale mi dà conforto e sollievo, ben venga l'appretto industriale. Poi mangiare hot dog, scopare naturalmente, un altro, dov'è, c'è una cosa, dice una bella donna in carne che gode come una matta, ma poi questi sono i film delle persone. Ma in realtà le sensazioni, chiedo ai nostri ascoltatori, sono di tipo diverso, sono personali, individuali, personalissime. Più sono singolari, più sono diverse da quelle condivisibili, meglio è. Maddalena. Sono io. Senta, l'unica cosa per me per la quale vale la pena vivere è una bella, lunga, intensa, luminosa storia d'amore con il proprio marito o con il proprio compagno. E lei la sta aspettando ancora? Vabbè, pazienza, arriverà. Melania? No. Ah no, scusi, no, non voglio, sennò sembra che la voglio segare. No, io l'ho già avuta. Purtroppo ho perduto mio marito nel luglio scorso e quindi sento una terribile... Quindi è nostalgia. Oh, troppo grande. Quanti anni ha Maddalena? E io ho superato i 70. La nostalgia, in fondo, ogni giorno è quello che ci può aiutare a ricostruire un senso della vita, è chiaro. Sì, d'accordo, però per me quello che conta è proprio quello. Il resto va tutto in secondo. Ma lo pensava anche prima che morisse suo marito? Sì, certo. Va bene, certo. Una persona fortunata. Melania. Salve, buongiorno a tutti. Allora, guardi, voglio dirle questo. Fino a pochi anni fa la mia ragione di vivere erano praticamente i miei sogni. Quindi sognavo e aspettavo. Che magari si realizzassero. Esatto, aspettavo che si realizzassero, magari anche colpa mia che non si fa... Vada al punto, quali sono le cose per cui vale la pena di vivere? Sennò... Adesso penso che l'unica cosa che valga la pena di vivere è aspettare quell'attimo in cui sei felice durante la giornata, che può capitare una volta al giorno, che può capitare una volta alla settimana. Sì, ma non è che può essere la ragione di vivere... Scusi, non può essere la ragione di vivere aspettare un attimo. Abbia il coraggio... La felicità purtroppo sì, ma faccia il salto. Volte può durare anche solo un secondo e sei veramente felice... No, lei sta menando il camper l'aia, Melane. Non la voglio segare, che è brutto. O mi dice una cosa per cui lei vale la pena vivere, concreta, vera, reale, o se no sta dicendo semplicemente cose che non hanno senso. Aspettare l'attimo, ma che vuol dire, scusi? Molto sì, meglio la signora prima che ha detto... Una giornata magari le può capitare una giornata ma cosa aspetta? Poi ma... in un secondo... Ma cos'è che le svolta la giornata? Secondo lei cos'è che le può svoltare la giornata? Anche farsi una semplice passeggiata, ma non è la mano con suo marito Melania. A renderla... Non ha ben chiaro, secondo me, perché lei dovrebbe dire una cosa reale, concreta: l'angelo che scende dal cielo e mi porta via, il treno che mi travolge, il profumo o il cattivo odore di qualcosa. Dice fare, non sa che, non ha ancora ben chiaro cosa sia. Mauro, vediamo se lei è un po' più chiaro. Pronto? No, bisogna essere chiari: c'è una cosa vale la pena vivere, ditela, se no aspettare l'attimo, che vuol dire? Aspettando l'attimo uno si può putrefare lentamente, non ha avuto nulla da pensare che valga la pena per vivere. Cosa pensa lei? E io l'unica cosa per cui vale veramente la pena vivere, visto il mondo stressante che c'è oggi... Per lei, per lei, non per gli altri. Per me, e tornare alla vita di campagna il prima possibile. Lei ha lavorato in campagna, ha vissuto in campagna. Sì, ci sono cresciuto senza avere niente. Poi sono passato a fare l'imprenditore edile e non vedo l'ora di poter tornare a quella vita là. E perché non lo fa? No, la condivido molto, ho grande nostalgia. Per il discorso di redditività. Prima devo sistemare alcune cose e poi torno a fare quello che è il mio sogno, tornare ai profumi e agli odori di quando ero piccolo. Che allora in questo periodo qual è il profumo e l'odore che si ricorda? Quello della stalla. La cosa più bella che può sembrare sì, perché era freddo, si entra... sì, il profumo della stalla era la cosa meravigliosa che c'era. Perché in questa stagione si vive più nella stalla che fuori, naturalmente. Ancora di più. Sì. Certo. quello che emana cattivo odore in realtà è il combustibile del riscaldamento, la notte esatto, si dorme stanco. Esatto, quello che sto cercando di fare capire ai miei figli, che ogni tanto, ogni fine settimana li porto in campagna perché alleviamo ancora qualche animale. Oddio, appassionarli allo strame dei ragazzi nati fra i deodoranti no, è un po' difficile. No, fargli capire la differenza che c'è tra la puzza e il profumo della campagna, quello che non... che è difficile far capire oggi ai ragazzi. È un po' difficile per chi non l'ha respirato da piccolo. Esatto. Quando io dico che una delle cose che più mi esalta era quelle mattinate ghiacciate di gennaio, quando aspettavamo lo scannamento del maiale, se lo dico mi fucilano. Sì, e io ogni anno lo porto i miei figli anche a quello per fargli dire. E mio figlio ha recepito bene, che c'ha 7 anni, è maschio, e ha recepito anche mia figlia, perché continuiamo a fare la cultura della macellazione in casa della carne. Lo so, ma è molto difficile spiegarlo, perché in realtà c'è un aspetto cruento esatto, che oggi non fa più parte della tradizione. Felice, buongiorno. Sì, buongiorno. Sento, io volevo dire che, essendo uno dei fortunati del momento, grazie al dono della vita... Vorrei avere la capacità ci abbiamo tutti il dono della vita, perché siamo tutti vivi, noi che parliamo e ascoltiamo. Avere la capacità di lasciare l'ambiente migliorato ai prossimi fortunati, essendo io un fortunato del momento. Ma lei parla come Miss Italia, che vuol dire lasciare l'ambiente? Lei pensa cosa fa felice a lei? L'ambiente è tutto ciò che ci circonda, tutto. Vabbè, ognuno, diciamo che percentualmente nei nostri ascoltatori due hanno detto che loro piace tanto pulire la spazzatura altrui e li fa sentire molto bene. È un motivo per vivere, non dico che sia condivisibile, ma mi sta bene. A domani.